Benvenuti all'ennesima puntata di Cialtroni nello spazio. Trasmissione di musica, in realtà no, solo, non solo, informatica e diritti digitali. Sto cercando di imitare un po' Marco che non sa mai cosa. Diciamola dire, meglio, questo. Lo spazio di approfondimento informatico tecnologico di Radio Onda d'Urto. Nuove tecnologie, nuovi media, nuovi metodi di censura, repressione e controllo delle informazioni. Lo stai dicendo bene oggi? Infatti scritto. L'hai scritto, ecco. Bene, di cosa parliamo oggi? Abbiamo, allora, vabbè, c'è un accordo tra la Microsoft e una ditta abbastanza famosa che produce software libero, la Novell, che cercheremo un attimo di dissertare in seguito, però in realtà in questa fase non c'è ancora nulla di molto chiaro. Poi abbiamo un po' di informazioni sul Trusted Computing, in particolare le mosse di Alice e della Apple. Faremo un attimo un discorsetto per quanto riguarda le elezioni americane, per quanto riguarda le macchine di voto elettroniche e poi qualche aggiornamento sulla situazione di autistici e il lancio di un nuovo servizio da parte del collettivo e un attimo di riassunto di quanto è stato il Linux Day nazionale, almeno per quanto riguarda il Linux Day qua a Bresciani della settimana scorsa. Teneci compagnia come al solito i Chemical Brothers Remixed e buongiorno ad Alessandro che non ha ancora detto una parola. Ciao a tutti. Da dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare magari dal Linux Day. Abbiamo nelle settimane scorse avevamo un po' presentato, poi mercoledì scorso era festa, non ci siamo più sentiti, quindi lo parliamo brevemente. Ci sono stati tre appuntamenti, uno nel Ovest Bresciano organizzato dal LugoB, uno sul Garda e uno a Ingegneria. Io sono stato quello di Ingegneria, dove c'era decisamente una notevole partecipazione. Quante persone circa? Sì, un centinaio di persone, di cui molte visibilmente era la prima volta che si avvicinavano a Linux. C'è stato un po' un'introduzione generale tenuta da un professore che ha cercato di spiegare un po' il significato di che cos'è il mondo libero, con anche il mondo del software libero, esatto, la filosofia del software libero, e con anche degli esempi abbastanza divertenti che sono conosciuti un po' nel giro, ma che però fa sempre piacere allargare. Quindi nel momento in cui ha cercato di spiegare perché è sbagliato chiedere delle royalties per 50 anni sul diritto d'autore, ha detto come se un insegnante chiedesse delle royalties per quello che insegna ai suoi alunni. Ovviamente un insegnante deve essere pagato, ma da qua a dire che tutto il prodotto dei suoi alunni debba dare una percentuale di quello che fanno a lui perché gli ha trasmesso conoscenza è assolutamente ridicolo. E quindi questo è uno degli esempi che mi è più piaciuto. Beh, mi parlavi anche di una presentazione molto più visiva, con sì, degli effetti è speciali. Una cosa molto molto carina che ha stupito molto le persone presenti è stata la presentazione del nuovo sistema grafico di Linux, che sta diventando diciamo così sempre più stabile soprattutto nelle ultime settimane e mesi, e che diventerà probabilmente sempre più diffuso nei prossimi periodi, ovvero XGL, un sistema che anticipa la grafica che si troverà in Windows Vista, un sistema che permette di fare dei giochini molto divertenti, che potrebbe essere anche veramente interessante farlo per esempio al Circo Lab, una presentazione di che cos'è XGL e di alcuni gestori di finestre che sono molto carini, fanno degli effetti grafici e comunque hanno anche delle cose che servono un po' alla produttività, tipo un modo di iconizzare molto velocemente le applicazioni creando una finestra che apre al volo delle miniature delle finestre aperte. Vedo Marco che segna Circo Lab su un foglio. Infatti lo anticipo adesso. Stiamo parlando del Linux Day. Dopo è riaperto il Circo Lab. No, riaprirà il Circo Lab tra poco. Adesso stiamo finendo di parlare del Linux Day. Comunque, esatto, c'era durante questa presentazione c'erano molte facce stupite, molte bocche aperte, molte lo voglio anch'io. Beh, effettivamente gli effetti grafici sono abbastanza appariscenti e cioè, forse il dubbio è un po' sull'utilità, però sicuramente È molto bello da vedere come tipo di desktop, come approccio grafico. È molto bello da vedere e soprattutto è anche un po' la dimostrazione che le cose inutili non esistono solo su Windows, che non è poco. No, comunque esatto. Penso che sia una grande battaglia vinta quella di aver fatto uscire XGL in una versione così stabile prima di Windows, perché credo che vada un po' contro quello che è un po' il, diciamo così, pregiudizio che c'è nei confronti di Linux, che ci si porta dietro dai tempi in cui DOS e Linux stavano andando avanti insieme, ma poi è nato Windows e le finestre su Linux son comparse un po' dopo, e questa, diciamo così, questa fama di essere un sistema operativo ostico e soprattutto brutto e noioso, penso che con XGL può tranquillamente scomparire dai pregiudizi che ci sono su Linux non appena XGL sarà molto più diffuso. E niente. Per quanto riguarda invece la parte est di Brescia, il Garda. Esatto, io sono stato al Linux Day del lago di Garda. Lì, complice il fatto che la pubblicità per questo Linux Day è stata fatta in fretta e furia negli ultimi giorni, e abbiamo avuto un basso numero di persone presenti a questo Linux Day, intorno alla quindicina di persone. Una cosa abbastanza da... Sì, insomma, alla fine è stato un po' un fallimento il Linux del Lago di Garda, e speriamo l'anno prossimo di riuscire a pubblicizzarlo meglio, a ottenere qualcosa di, cioè un po' più di persone, appunto, perché lo scopo del Linux Day è fondamentalmente quello di far vedere Linux, farlo conoscere alle persone, e se queste persone non vengono, alla fine è un fallimento farlo in questo modo. Speriamo nell'anno prossimo. Per quanto riguarda il lug dell'Ovest Bresciano, non ci siamo premurati di prenderci informazioni, siamo un po' dei cialtroni anche per questo, però se c'è qualcuno del lug dell'Ovest Bresciano che ci sta ascoltando, impossibile. Ah, è possibile. E magari ci può chiamare anche in diretta. Siamo in diretta 030 45 670. Se qualcuno di voi è stato al Linux Day e vuole raccontarci la sua esperienza, può farlo. Interromperemo qualsiasi cosa stia dicendo Marco per dare spazio alle parole degli ascoltatori. Anche quest'anno si stanno sfogliando, proprio in questi minuti in cui siamo in onda, ancora le schede delle elezioni di middle term, e si sono tornati alcuni dei problemi che si erano già denunciati nelle elezioni precedenti, sia quelle del 2004 ma anche quelle precedenti. In particolare era quella del 2004, in cui il proprietario era il presidente del comitato per la rielezione di Bush nell'Ohio. Lo stato che si rivelò decisivo era il proprietario degli schermi computerizzati che vengono utilizzati per il voto. Quello che accade all'interno di questi computer, l'abbiamo già detto diverse volte, non si può sapere. In molti casi non vengono rilasciate delle copie stampate dei voti espressi. Nei giorni scorsi è accaduto che addirittura il tocco sul nome di un certo candidato provocasse l'uscita del nome del suo avversario. Tutti i casi che sono stati denunciati in questi giorni da vari quotidiani, ma che hanno provocato anche un po' di proteste. In particolare i democratici hanno costruito un esercito di centinaia di avvocati che in teoria dovrebbero essere pronti a vigilare su ciò che avveniva durante le operazioni di voto, però anche i repubblicani hanno deciso di fare altrettanto, e vedremo insomma come si svolgerà la battaglia legale, se verrà veramente impugnata. Intanto andiamo a vedere che cosa è successo nella giornata di ieri. Prendiamo un articolo da realtà il manifesto che racconta di come nella contea del Delaware gli elettori di 75 seggi non hanno potuto votare perché le schede che accendono i computer contavoti non erano correttamente programmate. Nella contea di Marion i funzionari elettorali hanno dovuto provvedere a rifornire di schede di carta ai cittadini perché in più dei 100 dei 914 seggi elettorali le macchine touchscreen non funzionavano. Nello Utah gli elettori della città stavano tentando di votare prima di andare al lavoro, si sono trovati ad aspettare un'ora e mezza e poi hanno dovuto abbandonare il seggio appunto perché dovevano andare a lavorare. Ricordiamo che negli Stati Uniti è forse una delle poche democrazie dove si vota nei giorni feriali, dove i giorni prima di andare o dopo essere andati al lavoro. E quindi questi hanno dovuto abbandonare il seggio a causa di guasti alle macchinette contavoto, ancora macchinette contavoto distribuite in maniera da beneficiare i distretti repubblicani e punire quelli dei democratici. Era successo nel 2004, ma quest'anno adesso è successo anche a Salt Lake City. Poi nello Utah la Associated Press, un'agenzia di stampa, parla di come nella contea di Dedgett ci siano più elettori registrati che cittadini. I democratici accusano la responsabile elettorale di voler gonfiare in qualche modo i voti dei repubblicani, e questi casi di questo tipo continuano. Andiamo a segnalare soltanto l'ultimo. Un candidato, James Webb, che era un contrapposto al razzista repubblicano George Allen, sulle macchinette elettorali non c'era il suo cognome, quindi si poteva votare o per George Allen oppure per James Jim. Ed è chiaro che il non avere il corretto nome di un candidato sulle macchinette elettorali, guarda caso proprio di un candidato democratico che si candidava contro un noto razzista, è un problema per chi vuole votare per lui, che non lo trova, insomma. Ricordiamo che la gran parte delle macchinette sono tutte costruite da aziende in qualche modo legate ai... Lo stavo dicendo, se non mi interrompe, bestiaccia. Ma l'ho detto io all'inizio del discorso. Appunto, lo stavo ripetendo, citando appunto una di queste, che è la Diebold, che tra l'altro produce un sacco di macchinette del genere, anche alcuni bancomat che ho visto qua in Italia. E appunto questa Diebold aveva presentato qualche mese fa la sua macchina a un insieme di persone, appunto per farla analizzare, e questi avevano scoperto che bastava togliere due viti dietro e cambiare la posizione di un selettore e non avrebbe più utilizzato la memoria interna per prendere le informazioni, ma si poteva attaccare un qualsiasi disco o una chiavetta USB esterna in modo da andare a poter modificare tutti i dati all'interno di questa, appunto, di questa macchina dei voti. Questa cosa ovviamente non si può fare durante il giorno, ma durante la notte, quando le macchine sono appunto depositate, andare a modificare il conteggio dei voti è possibile. Per cui in realtà questo dimostra che le votazioni fatte con quel sistema di voto elettronico che la Diebold si rifiuta di distribuire, appunto, i sorgenti di questa macchinetta per il voto, per poter essere analizzata, appunto il voto con questi sistemi elettronici non è assolutamente affidabile e può essere soggetto a brogli pesanti. Andiamo adesso a parlare del collettivo autistico e di nuovi servizi che vengono implementati. Andiamo a vedere un po' il nuovo portale, la nuova veste grafica del piano R di cui abbiamo parlato l'anno scorso, che è un piano che è partito come piano tecnologico più che altro, di cui abbiamo descritto sommariamente l'anno passato le caratteristiche. E adesso è stata rifatta un po' la veste grafica del portale e sono stati aggiunti alcuni servizi che particolarmente interessanti, soprattutto perché vanno a fare concorrenza, tra virgolette, diciamo, a servizi contenenti pubblicità o cose del genere, come i blog. Già l'anno scorso avevamo parlato di questo fenomeno, che è un fenomeno sociale che ormai è anche stato testimoniato da diversi media tradizionali, giornali, televisioni, eccetera. Il problema che avevamo evidenziato anche l'anno passato quando avevamo provato, cioè quando avevamo parlato di questo tema, era che non esistono in ambito di movimento o in generale nella comunità hacker, comunque nei servizi diciamo disponibili, servizi di blog gratuiti e senza pubblicità, quindi anche con una serie di policy di pratiche che permettessero appunto la pubblicazione anonima e la gestione anonima di questi servizi senza appunto il problema della pubblicità intorno. L'idea della crew di Inventati, di Chaos, era quella di fornire questo servizio e lo ha attivato tramite il portale www.inventati.org. Allora, il portale è stato rivisto e adesso è presente anche un blog interno del collettivo di Chaos, in cui vengono riportate tutta una serie di notizie legate all'informatica e alla gestione di autistici Inventati. Comunque, per quanto riguarda il servizio di blog, dalla pagina principale, sotto la colonnina servizi, è possibile vedere i vari servizi offerti, tra cui anche quello di blog e siti web. C'è una spiegazione di che cos'è un blog, di che cos'è il progetto No Blogs e la possibilità di aprirne uno immediatamente. È richiesto esclusivamente il nome utente, quindi non il nome reale, e una casella di posta reale in cui spedire i dati, preferibilmente anche quella su un servizio in qualche modo anonimo, come può essere appunto quello di Inventati o di altri server di movimento, come quello di Numerica. Dopodiché, una volta attivato, è possibile utilizzare il blog come qualsiasi altra piattaforma di blog presente, come quello di Google o come altri di cui avevamo parlato all'epoca. Ecco, col vantaggio appunto dei servizi che dicevi prima, di essere totalmente anonimo, di non avere i log di chi scrive determinate cose, quindi insomma una sorta di tutela nei confronti della privacy di chi vuole diffondere le informazioni. Esatto, anche con la garanzia che le informazioni pubblicate non siano indicizzate da motori interni, perché di fatto il fatto che molti ci siano svariati servizi gratuiti che permettono di aprire blog, è anche che tutto il contenuto che viene prodotto in questi blog, che a volte sono anche molto corposi, nel senso anche quando si va al di là del blog personale, ma si fanno anche produzioni, informazioni, insomma ci sono molti fenomeni, giornalisti che hanno aperto blog, eccetera. Questo genere di informazioni prodotta gratuitamente, insomma, viene poi riutilizzata in maniera più sotterranea, viene indicizzata e ne vengono analizzate le informazioni. In questo caso su Autistici Inventati questa cosa non c'è. C'è una clausola nelle policy generali, e che è evidenziata, che sostanzialmente il collettivo chiede che vengano condivise con noi i principi di antifascismo, antirazzismo, antisessismo e non commercialità di quello che viene pubblicato. E questo perché, vabbè, si tratta di un server di movimento e comunque viene fatto, insomma, per sostenere il movimento, le sue necessità, e richiede anche la condivisione di minimi termini che però sono imprescindibili. Contemporaneamente è stato aperto un altro servizio di link share o di condivisione dei link. Non mi veniva in mente il nome in italiano. Sostanzialmente è un modo per condividere i propri bookmarks. Anche questo è un servizio molto utile perché permette a collettivi di non doversi riscrivere i bookmarks ognuno singolarmente, e di poter selezionare anche le fonti di informazione o comunque le varie fonti internet che cercando di capire un attimino, di selezionarle e di distribuirle e rendere pubbliche anche agli altri, quindi per non dover rifare il lavoro più volte. il gruppo di autistici utilizza questi stessi servizi anche nel loro blog del collettivo, per condividere le notizie di copy down, delle FF e comunque di altri siti che pubblicano informazioni riguardanti il copyright e le libertà digitali. Ancora due gli argomenti di cui andiamo a parlare adesso. Uno molto velocemente, un'offerta che è stata segnalata da alcuni lettori di Punto Informatico, portata avanti da Alice, nota piattaforma di diciamo così, di utilizzo di internet, di connessione, di banda larga di Telecom. Un'offerta che pone, oltre alla possibilità di telefonare, la possibilità di navigare in internet con una banda di 2 mega, anche la possibilità di comprare un portatile HP a prezzo scontato e a rate. Un portatile che però è un dispositivo riportato nella lista di Trusted Computing del sito di no1984.org, no1984.org, un sito che lotta contro la diffusione del Trusted Computing. Quindi sostanzialmente questo portatile, che è in, appunto in prezzo scontato con l'offerta di Alice, c'è un chip cosiddetto Fritz che viene utilizzato nelle piattaforme Trusted e viene utilizzato per coprire una parte del proprio hard disk e mettere a disposizione dei servizi commerciali in qualche modo attraverso delle chiavi criptate che garantiscono, possono permettere a coloro che offrono i contenuti, quindi in questo caso Alice, di avere dei controlli un po' particolari sul materiale che voi utilizzate. Beh, per esempio, la cosa più semplice che ci viene in mente è permettervi di scaricare un filmato e di lasciarvelo vedere, ad esempio, soltanto 2 o 3 volte, o permettervelo di guardarlo quante volte volete, ma non in un determinato periodo. Non lo so, i film della Disney non ve li potete guardare sotto Natale, ma dovete andare al cinema o qualcosa del genere. Comunque, appunto, questo Trusted Computing in questo caso permette di creare questa parte criptata di disco e quindi inaccessibile all'utente, ma accessibile soltanto a un sistema di comunicazione criptato che viene iniziato sempre da parte di quelli di Alice. E quindi in particolare loro possono accedere a una parte del vostro disco, tenerci dentro delle informazioni loro e permettere a voi di guardare, di accedere a queste informazioni soltanto in base alle regole che vengono definite da quelli di Alice. E quindi un altro esempio è che voi non potete accedere a quei contenuti in alcun modo mentre ad esempio non siete connessi. Deve esserci sempre questo canale di comunicazione, parte protetta e chiusa dal vostro disco, Alice, in modo che voi, quelli possano controllare quello che voi fate con quella parte di disco criptata. In direzione completamente opposta è una notizia appunto di questi giorni, che la Apple ha dichiarato che invece non utilizzerà più i sistemi DRM, quindi sistemi basati sul Trusted Computing, nelle sue prossime periferiche, quindi nei suoi prossimi Macintosh. La notizia non parla sul fatto se queste tecnologie verranno utilizzate o meno negli iPod. E infine, in chiusura di trasmissione, un accordo che sicuramente farà discutere anche nei prossimi mesi tra Novell e Microsoft. Novell, un'azienda open source che si occupa comunque di produzione di materiale di software per Linux, in particolare credo che il prodotto più noto sia forse la distribuzione SUSE, esatto, la distribuzione di Linux SUSE, che ha firmato un accordo un po' particolare con Microsoft. Ce ne parla Marco. Allora, l'accordo è praticamente è una sorta di accordo tra le due aziende, per cui entrambe riconoscono i brevetti fatti dall'altra parte dell'accordo e dichiarano di non fare, appunto prendono l'impegno di non farsi delle guerre per l'utilizzo di questi brevetti, e quindi permettendo all'altra parte di utilizzare i brevetti fatti dalla prima. Per esempio, in questo caso la Novell potrà utilizzare della roba brevettata da Microsoft senza che questa la denunci, appunto, la Novell per l'utilizzo dei brevetti Microsoft. La cosa che lascia tutti stupiti è appunto questo accordo, in quanto dalla parte sua Novell non ha alcun brevetto importante da poter portare verso Microsoft, mentre invece Microsoft sta dando un sacco di soldi, si parla di una cifra di circa 308 milioni di dollari a Novell, appunto, per firmare questo accordo. E questa cosa sta facendo storcere il naso a tutta la comunità open source. Bruce Perens, ad esempio, dichiara che la Novell sta prendendo i posti della SCO. La SCO era un'azienda che, spinta dai soldi della Microsoft, aveva denunciato le distribuzioni Linux più famose, dicendo che la proprietà del codice Unix era suo e che questi dovevano andare una determinata royalties per ogni distribuzione Linux venduta e cose del genere. La battaglia legale della SCO oramai sono finite, con la SCO che è sull'orlo del fallimento, e adesso la Microsoft, secondo appunto Bruce Perens, si sta appoggiando a Novell per aprire un'altra battaglia verso, appunto, il software libero. La Novell ovviamente nega, dicono che la Microsoft è spinta da tutti i più buoni intenti di questo mondo, ma insomma siamo un po' dubbiosi anche noi su questa cosa. Ma in realtà più che una... Il microfono Alessandro. Male. In realtà l'avevo abbassato. In realtà più che un'azione legata direttamente ad una questione legale, pare più un accordo commerciale che punti, insomma, a creare un interesse all'interno anche di alcune aziende open source, anche grosse, interesse per quanto riguarda i brevetti, quindi per avere una maggiore pressione, oppure dall'altro canto un minore resistenza all'introduzione dei brevetti anche in Europa, visto che la questione che si è chiusa l'anno scorso, o meglio la proposta di legge che è stata respinta l'anno scorso a livello europeo, in realtà non ha trovato poi una conclusione definitiva in una normativa che sancisca definitivamente che il brevetto in Europa sul software non è accettato, perché lo si considera prodotto d'ingegno e quindi sottoposto solo alle leggi che riguardano il copyright. È molto probabile, almeno una delle possibili analisi è quella che, appunto, vede questa iniziativa come tentativo di rendere più facile l'introduzione in Europa di una legge che esiste già negli Stati Uniti, che è appunto quella sul brevettabilità del software. D'altro canto non fa il paio con altre iniziative di altre aziende che producono software open source ma che tendono a produrlo sotto licenze meno stringenti della GPL, ce ne sono svariate, e che insomma si tengono in qualche modo una via di uscita in prospettiva di un futuro in cui sia possibile da parte loro brevettare o comunque chiudere sotto licenza proprietaria piccole parti però fondamentali all'interno di progetti open source. Magari una volta che si sono creato un mercato abbastanza ampio, esatto, da migliaia di persone o di professionisti o aziende che necessariamente dovranno poi passare a questo. Insomma, utilizzare l'open source un po' come cavallo di Troia per inserire comunque poi delle componenti proprietarie, chiaramente per incrementare i profitti di queste aziende. Qualcuno lo considera uno strumento lecito, dato che la concorrenza è assolutamente al limite, ad esempio caso tra tutti la Microsoft, ma comunque ce ne sono svariati, ad esempio le varie cause che Microsoft ha poi perso o patteggiato per quanto riguarda la concorrenza sleale. E quindi c'è chi sostiene che questo tipo di pratiche siano comunque lecite per battere la concorrenza di Microsoft. Sono più che altro questioni aziendali, hanno poco a che vedere col movimento open source in ogni caso. In chiusura di trasmissione vogliamo dare un annuncio? Eh sì, allora siamo quasi annuncio, senso che a brevissimo versione 0.1. A brevissimo il Circo Lab riaprirà, infatti abbiamo terminato tutte le chiamiamole menate, le cosiddette menate, con tanto di cartelli appesi per strada. No, lascia stare, è stato un episodio simpatico che e quindi dovrebbe riaprire a brevissimo il Circo Lab mercoledì 15, se non sbaglio abbiamo la riunione per decidere cosa fare. Esatto, sì. Una riunione quindi in cui si devono portare dei progetti collettivi, chi vuole utilizzare in qualche modo lo spazio locale del Circo Lab. Via Battaglie. Dovrà via Battaglie, sì. Fratelli Bandiera, sbagliato. Via Fratelli Bandiera, vicino a Via Battaglie. Esatto. Che ora? Numero 12 C. Esatto, siamo quindi mercoledì sera circa verso le 9, una roba del genere. E niente. Circo Lab. A breve riapre. Ma con lo stesso nome? Chi lo sa? Non si sa. Mercoledì. Sì, dovrà decidere anche questo. Allora, sì. Beh, i cialtroni restano sempre i cialtroni, poi lo spazio cambierà nome, insomma, non lo so. Vedremo tutto questo nella prossima puntata. Esatto. Cioè no, mercoledì prossimo, quindi dopo la prossima puntata. Tra due puntate si saprà qualcosa di più. Sigla. Inizia sempre bassa. Per ricordare anche, rimane sempre la mail attiva radio@circolab.net. E il sito, un po' come il sito radio.circolab.net, è facile, per cui ma è stato aggiornato? Ci sono le prime puntate? Non fare domande. Non facciamo domande. Un saluto, appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle 12.40 su Radio Onda d'Urto. Ciao.